Buongiorno a tutti, bentornati su Radio Virus, la radio per un mondo infetto. È una radio distribuita su diverse regie sparse per Milano e per l'Italia e per il mondo. Ognuno sta trasmettendo dal proprio appartamento, ascoltando le notizie dalla rete, dalle televisioni, dalla propria finestra e dalla persona che incontra facendo la fila al supermercato. Anzi, invito, come sempre, a proporci un programma. Trovate gli indirizzi su radiovirus.org e potete spedire una mail a hello@radiovirus.org. Allora, in questa trasmissione ci prendiamo il tempo per fare alcuni approfondimenti con alcuni ospiti. Il tema della trasmissione di oggi è il rapporto fra salute del nostro pianeta e pandemia del coronavirus. Insomma, la sensazione è che il nostro pianeta si sta facendo giustizia da solo. Dopo secoli che lo trattiamo male, ne estraiamo le risorse e ne inquiniamo l'aria, ne tagliamo le foreste, ne sporchiamo le acque, dopo secoli in cui lo abbiamo sfruttato a dovere senza troppo preoccuparci delle conseguenze, dopo tutto questo è tempo che l'umanità comincia a subirne le conseguenze. Insomma, gli altri regni, quelli dei virus, dei batteri e le altre famiglie, quelli degli animali e delle piante, ci stanno attaccando e ci stanno dicendo che così non si può andare avanti. Detta così sembra un po' semplice, ma a volte costruire delle immagini semplici e comprensibili è un esercizio utile per chiarirsi le idee e capire in che direzione si vuole andare. Allora, sono usciti parecchi articoli negli scorsi giorni che mettono in correlazione l'inquinamento dell'aria con gli epicentri delle zone con maggiori contagi. Insomma, dalla Cina di Wuhan alla Lombardia e all'Iran, sembra che i focolai più insidiosi e duri a spegnersi sono proprio in delle zone la cui qualità dell'aria è molto cattiva. D'altro canto, da quando siamo in quarantena, io non ho mai respirato meglio a Milano. Sono un visitatore compulsivo delle mappe della qualità dell'aria dell'ARPA Lombardia e nell'ultimo mese abbiamo una qualità eccelsa dei livelli di PM5 e PM10. Insomma, il coronavirus ci ha fatto rallentare, non circolano più auto e in una settimana a Milano si respira aria di montagna. Ho chiesto di fare un punto su questi temi a ABO, Alberto Di Monte, del laboratorio Off Topic. Viviamo in un tempo che è stato completamente permeato, dal tema del coronavirus, un'infezione virale, una pandemia che ci tocca non soltanto dal punto di vista igienico-sanitario, non soltanto dal punto di vista mediatico, con questa perpetua insistenza di numeri, di grafici che ciascuno di noi fa fatica a leggere e interpretare, ma una pandemia anche sociale e culturale, cioè che ha avuto la capacità di impattare in maniera rapida e globale sui modi di vita. La possibilità di abitare, di spostarsi, di studiare, di lavorare, soprattutto di intrattenere relazioni sociali, è stata completamente minata da una situazione di emergenza conclamata che è inedita per ciascuno di noi. All'interno di questo framework, si è fatta nelle ultime settimane largo una domanda in particolare, un'ipotesi di lavoro. Esiste una correlazione tra Covid-19 e inquinamento atmosferico? Per rispondere a questa ipotesi di lavoro, dobbiamo partire dal contestualizzare il luogo e il tempo in cui ci troviamo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, soltanto 4 anni fa, ha stimato 30.000 morti in Italia dovute all'inquinamento atmosferico. Nelle settimane in cui il virus covava silenziosamente nel piano padano, a Milano, diciamo il trimestre dicembre 2019-febbraio 2020, le concentrazioni di microparticolato, uno degli inquinanti che meglio caratterizza, diciamo così, la qualità dell'aria milanese, aveva costantemente superato i limiti di legge. Più in generale possiamo dire che la regione Lombardia, così come il Piemonte, il Veneto, l'Emilia-Romagna, specialmente nelle stagioni più fredde, vivono una situazione di congestione di traffico e di diciamo così, il combinato disposto tra la congestione del traffico veicolare e le politiche industriali e l'inquinamento dovuto ai riscaldamenti, alle caldaie domestiche e non, che porta a una qualità dell'aria che tende tendenzialmente, è sempre molto bassa e mina i nostri polmoni e quindi la nostra capacità, la capacità del nostro organismo di resistere agli impatti esterni. C'è una parola molto abusata ultimamente, sia in biologia che in politica, che è la resilienza, cioè la capacità di adattamento. Ecco, il nostro corpo non si adatta facilmente a condizioni meteorologiche, atmosferiche, climatiche che mutano. Non si adatta facilmente alla temperatura, non si adatta facilmente a bruschi cambi di umidità, evidentemente non si adatta facilmente al cambio chimico nella composizione dell'atmosfera. Il diossido di azoto, il microparticolato, i tanti inquinanti, l'ozono che sono in atmosfera ci fanno male quotidianamente. Possono essere la causa diretta della morte o possono minare la nostra capacità di reagire ad un'infezione, ad un altro tipo di patologia. Quindi la prima delle risposte, anche se non è una risposta maiuscola che possiamo dare, è che certamente di fronte a qualunque patologia di questo tipo, l'impatto dell'inquinamento atmosferico e in generale della insalubrità del nostro ambiente di vita e di lavoro ha un ruolo nel farci trovare pronti o invece più esposti. Entrando nello specifico, diciamo, di queste settimane, ci si è chiesti se effettivamente l'inquinamento atmosferico potesse essere migliorato per effetto della pandemia. Tanti articoli si baloccano su un dibattito sul fatto che più che il microparticolato, che dipende appunto anzitutto da fattori meteorologici, disperdendosi in maniera omogenea sul territorio, il diossido di azoto, in maniera sintetica l'NO2, si sia immediatamente abbattuto per effetto della profonda trasformazione del crollo della mobilità, trasporto pubblico locale, mobilità privata, mobilità sulla lunga distanza. Cioè meno mezzi circolanti in giro significa immediatamente meno NO2. Questo è certamente vero. Quello che è meno vero sono le ricadute immediate di questo tipo di ragionamento nel momento in cui andiamo a farne una deduzione di portata troppo ampia. Ogni crisi, ogni blocco, la stessa crisi finanziaria di 10-12 anni fa ha portato nell'immediato ricadute ambientali positive. Il problema è come evadere da qualunque determinismo consolatorio, cioè dobbiamo osservare sempre non al dato puntuale, al dato di questa giornata, questa è una lezione che in queste settimane dovremmo aver capito bene, ma dobbiamo guardare alle proiezioni, agli scenari sul medio-lungo termine. Il fatto che oggi l'inquinamento crolli, il fatto che oggi la produttività crolli, il fatto che oggi i livelli di NO2 si abbassino, non significano necessariamente che dopodomani verranno ripristinati con un orizzonte migliorativo o semplicemente temperati per raggiungere nuovamente, ma in ritardo, quel livello di inquinamento. Il ripristino dopo una fase di crisi è spesso peggiorativo, cioè più investimenti nelle vecchie soluzioni e meno innovazione invece in quelli che sono i traguardi di sostenibilità che ci si era posti in tempi, diciamo, di maggiore ricchezza. Nella stessa direzione va anche il clamore con cui è stato accolto uno studio, pur interessante in sé, non voglio assolutamente parlarne male, che è un documento di posizione cosiddetto della Società Italiana di Medicina Ambientale. Si parla di PM, microparticolato, appunto, come potenziale carrier, come potenziale vettore dell'infezione virale. Ora, nel aiutare un virus, la più piccola delle, come dire, delle particelle viventi, la più ignota, a traghettare da un corpo umano all'altro, ci sono tanti elementi che possono fare la differenza, oltre alla distanza tra i due corpi. L'umidità, il sole, la temperatura sono certamente degli elementi che vanno a incidere sulla capacità, ad esempio, appunto, delle goccioline di saliva di arrivare a un'altra persona. Dobbiamo però stare attenti a una cosa, non dobbiamo confondere un'ipotesi di lavoro, quella appunto che il microparticolato sia un vettore, un'ipotesi di lavoro su cui le ricerche andranno avanti con nuovamente un determinismo consolatorio. Noi questa cosa non la sappiamo, sappiamo che certamente l'impatto dell'inquinamento atmosferico è peggiorativo anzitutto sul nostro, sul funzionamento del nostro sistema corporeo e poi evidentemente può essere anche un elemento ulteriore che mette in crisi, che mette, come dire, che agevola la facilità di trasporto della patologia. Venendo invece a quello che certamente sappiamo, quindi non alle ipotesi di lavoro, ma agli studi che sono stati fatti su quanto accaduto negli anni passati, noi sappiamo che altre patologie virali di carattere zoonotico, cioè nate a contatto con altre specie viventi, la SARS, l'HIV, l'Ebola stessa, ecco, non più di una decina, dozzina di anni fa, Nature ha pubblicato un interessante studio che parla di quanto accaduto negli ultimi 70 anni del Novecento su oltre 300 malattie infettive e ci racconta che nell'epoca che oggi chiamiamo dell'antropocene, quindi nella stagione in cui come dire, l'uomo e gli impatti dell'uomo hanno modificato la fisica e la chimica del pianeta, in cui i biomi e il clima stesso sono profondamente mutati, in cui la deforestazione, l'acidificazione di suoli e oceani, il surriscaldamento climatico, insomma, nella stagione in cui l'uomo ha mutato profondamente il pianeta. L'incedere di queste malattie infettive è legata anzitutto a ragioni socio-economiche, ambientali ed ecologiche. Che cosa significa questo? Da un lato che non siamo tutti uguali di fronte alla malattia. Ci sono territori, comunità, popolazioni, fasce sociali più esposte, più a rischio e più deboli nella capacità di reagire, di rispondere a un agente, virale nuovo, inedito per il nostro corpo e per la nostra comunità. Dall'altra parte è necessario un approccio cosiddetto One Health. Non esiste una salute per la specie umana senza una salute per l'ambiente che la ospita e la natura viva che popola questo ambiente. Siamo sempre più a contatto attraverso le tante forme della globalizzazione con ambienti con cui non eravamo mai stati in contatto, lo scioglimento del permafrost, il contatto con il depauperamento delle foreste vergini, il contatto con ambienti in rapidissima trasformazione per effetto dei cambiamenti climatici ci porterà in altre occasioni a contatto con qualcosa che la nostra natura non conosce più, con qualcosa che è rimasto lontano, distante nello spazio fino a poco tempo fa. Oggi più che mai è necessario, ce lo racconta come dire, la sanità pubblica, che dopo 20 anni di attacchi oggi è diventata come dire, una specie di santo patrono diciamo, di questi giorni di profonda crisi. Oggi più che mai una sanità evidentemente pubblica deve essere immaginata come una sanità per l'uomo all'interno di una dimensione di territorio vivo. Ecologica, quindi diciamo una preoccupazione ecologica che non può essere messa in competizione sul territorio, sul terreno mediatico con il coronavirus, ma invece va assolutamente di pari passo e anche una relazione forse da ripensare appunto con le specie viventi. Questi sono forse solo alcuni degli elementi che possono aiutarci a guardare con uno sguardo diverso appunto questa relazione biunivoca tra territorio, umanità e cambiamenti climatici al tempo del coronavirus. E d'altronde, se andiamo a ripassare un pochino le indicazioni che stanno venendo dall'OMS, quindi diciamo, non parliamo della più radicale tra i laboratori politici che in questo momento si stanno confrontando anche sulle onde di radiovirus, ecco, l'attenzione proprio alla fisicità, al benessere psicofisico delle persone è una delle grandi strategie di superamento di questa crisi. Per questo, di fronte alle pur fisiologiche forme di diradamento sociale, di come dire, serrata delle nostre relazioni, chiusura in casa, eccetera, mantenere sempre uno spazio di apertura può aiutarci a respirare meglio anche quando l'aria di queste della nostra regione, della nostra città non è delle migliori. Mantenere la speranza non significa mantenere uno sguardo, diciamo così, un'aspettativa fiduciosa nei confronti degli altri. Significa mettere l'accento sulla persistenza dei nostri giusti desideri. Ecco, passiamo allora da Milano, la Lombardia, a Venezia, perché negli ultimi anni una delle resistenze territoriali più forti ed emblematiche in Italia è rappresentata dal Comitato No Grandi Navi, appunto della città di Venezia. Emblematico perché? Perché vede contrapporre l'interesse economico delle navi da crociera agli attivisti che difendono la laguna dalla devastazione architettonica e dall'inquinamento dei fondali. Sono proprio questa rete di attivisti che a fine marzo questo avevano in programma di fare un grande summit italiano sul clima. Ma è un appuntamento che è stato posticipato per l'emergenza quarantena, quindi dovrà svolgersi nei prossimi mesi. Ho qui ospite Marco Baravalle, a cui appunto ho chiesto di fare un punto sempre su il rapporto fra pandemia e giustizia climatica in attesa dei loro prossimi appuntamenti. Cos'è possibile dire di questo virus? Io naturalmente condivido alcune riflessioni che sono soprattutto riflessioni collettive che stiamo facendo con tante compagne e compagni qui a Venezia e a Nord-Est. Naturalmente nessuno, credo, in questo momento può essere tanto arrogante da dire di avere chiarissimo il quadro della situazione, però alcune cose si possono dire. Il coronavirus tiene insieme diversi livelli, il livello sanitario e il livello, diciamo, di quale risposta dare a questa crisi appunto sanitaria, ma anche un livello che è ecologico-politico, per usare una formula che è giustamente in voga in questi ultimi anni e mesi. Parto dalla prima cosa, diciamo quella più immediata. Come stiamo rispondendo, per esempio, a Venezia alla crisi sanitaria, tentando di non ridurre questa risposta all'individualizzazione, al solo distanziamento sociale e appunto all'individualizzazione appunto di questa crisi. Noi abbiamo messo in campo sostanzialmente due operazioni. La prima è un'operazione di cura urbana, cioè stiamo proponendo la spesa sociale. Stiamo facendo la spesa a tutti quei soggetti, soprattutto anziani a Venezia, alcuni malati, alcuni anche indigenti, che non possono uscire. Quando abbiamo pubblicizzato, reso pubblico, diciamo, questa disponibilità ad aiutare le persone con la spesa, non ci aspettavamo una richiesta così grande. Evidentemente dentro questa dimensione del coronavirus c'è davvero bisogno di risposte che guardino ad una cura collettiva come soluzione, come tampone a questo momento di difficoltà. Le seconde considerazioni sono invece di carattere più generale. Anzi, prima di arrivare alle considerazioni di carattere generale, volevo dire una seconda, una seconda, chiamiamola così, campagna in cui ci siamo inseriti, a cui stiamo partecipando, è quella sul reddito di quarantena, che naturalmente indica una modalità intelligente di occupare oggi questo spazio digitale che è l'unico, che o quasi l'unico, quasi il solo, che ci viene messo a disposizione e che è, credo, largamente problematico, di nuovo se lasciato ad una dinamica di puro individualismo. Ciò detto, ecco, invece le considerazioni di carattere più generale sono in molti a dircelo, penso a scienziati, penso a virologi, ma penso anche appunto a studiosi di ecologia politica. perché le pandemie sono e saranno sempre di più un problema per la società contemporanea, lo sapranno perché la pressione antropica e l'estrattivismo, l'aggressione da parte dell'uomo ad ecosistemi dove questi virus, diciamo, se ne stanno tranquilli, è un'aggressione sempre più violenta e generalizzata, cioè aggredendo gli ecosistemi, noi produciamo una liberazione di questi virus. Un esempio può essere quello del virus del corona, che è una zoonosi, cioè è un virus che opera un salto di specie dall'animale non umano all'uomo. Ecco, questa pressione antropica, che è uno dei caratteri dello sviluppo capitalistico, o meglio, del mantra sviluppista del capitale e del neoliberismo estrattivo, è una delle cause che può generare e genererà con sempre maggiore ricorrenza questo tipo di problemi su diversa scala, certamente, ma questa è una considerazione, diciamo, che fanno in molti e che mette in luce il nesso tra insostenibilità del dogma dello sviluppo neoliberale e anche il tema, diciamo, il tema della salute pubblica. L'altro è la diffusione con cui il nostro mondo, diciamo, la velocità con cui il nostro mondo globalizzato propaga questo tipo di pandemie. I virus viaggiano più veloci oggi, come viaggiano più veloci oggi le informazioni, le merci, eccetera, eccetera. Allora, qui sarebbe un discorso molto, molto complesso. La globalizzazione non è un evento che, a mio parere, almeno può essere giudicato come totalmente negativo o totalmente positivo. Certo, la globalizzazione è la globalizzazione del capitale, ma è anche stata la globalizzazione delle lotte, delle libertà. La globalizzazione ha permesso anche l'uscita dalla povertà di ingenti porzioni di questo mondo. Dopodiché è evidente che alla luce della pandemia, ma direi anche alla luce più generale del cambiamento climatico, una revisione, diciamo, dei modi di questa globalizzazione deve essere all'ordine del giorno. Su un piano ancora più generale, credo che la situazione che ci pone di fronte ad un pericolo, cioè ad un esercizio di prefigurazione in negativo. Questa quarantena digitale ci pone di fronte al problema della smaterializzazione del corpo, e questo è un tema politico primario. Noi siamo spesso abituati a vedere i corpi come ricettacolo delle biopolitiche. Siamo abituati, giustamente mi viene anche da dire, a leggere nei corpi l'intersezionalità dello sfruttamento, delle asimmetrie di classe, di genere, di razza, eccetera. Ma i corpi sono anche quelli che ci permettono di costruire un comune radicale, sono quelli che ci permettono di cambiare o perlomeno di tentare di cambiare il mondo e lo status quo. Io credo che oggi gli unici corpi che vediamo, gli unici corpi che sono permessi, sono quelli, diciamo, che passano attraverso la mediazione del digitale. Ora, io non voglio demonizzare il digitale, però voglio dire che di fronte a questa fenomenologia del corpo smaterializzato, noi dobbiamo reagire e dobbiamo temerla, perché questa, a mio parere, non c'è liberazione senza contatto fisico tra corpi, senza la capacità di costruire un incontro, ripeto, fisico nello spazio analogico tra corpi. Che poi ci sia un'ibridazione tra analogico e digitale, tra le due realtà, quella della realtà della carne ed ossa e la realtà del digitale, va benissimo. Questi sono i tempi, non è un discorso di carattere conservatore, ma la genealogia intellettuale di tutti quei discorsi che vedono nella smaterializzazione del corpo un potenziale di liberazione è una genealogia che di fatto si è ritorta su se stessa, cioè dall'ideologia californiana degli anni 90, cioè da quella grande speranza, tecnosperanza, che la rete avrebbe definitivamente liberato il genere umano, si è poi soprattutto tramutata in qualcosa che è andato a totale appannaggio del capitale, fino alle degenerazioni dell'accelerazionismo attuale, che non a caso si sono poi rivelate come strumenti per una strumenti asserviti ad una logica reazionaria e anarco-capitalistica, se vogliamo metterla così. Noi dobbiamo invece anche in questa situazione ricordarci che il comune che possono costruire i corpi è un aspetto fondamentale di qualsiasi politica di liberazione. Alcuni anni fa, nel 2011, durante il ciclo di Occupy, del 15M, delle primavere arabe, avevamo scoperto la tecnopolitica, cioè avevamo scoperto la possibilità di organizzare i movimenti anche attraverso i social network proprietari, per esempio, vero, ma non dobbiamo dimenticarci che quel carattere di controcattura del social network, della dimensione digitale, era un carattere che funzionava quando le strade erano piene di corpi, quando le piazze erano piene di corpi, quando questo incontro fisico non era qualcosa che veniva obliterato. Quindi ecco, credo che questo sia qualcosa che dobbiamo tenere presente in questa condizione eccezionale che stiamo attraversando. Ripeto, senza evitare ad ogni costo, senza demonizzare la dimensione digitale attraverso cui passano anche delle iniziative importanti di organizzazione, il reddito di quarantena, alcuni esempi di cura radicale, eccetera, eccetera, ma con questa attenzione. Io mi fermo qui e vi ringrazio per lo spazio che mi avete concesso. Ciao, buona quarantena, speriamo di rivederci di persona davvero più presto possibile.